Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, 82esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione sorella e amica di tutti gli animali, dedicata al vivere, pensare e agire cruelty free. In questo spazio tentiamo di viaggiare attraverso la diversità. Tutte le diversità sono interessanti e nutrienti, ma in particolare ci concentreremo sulle diversità tra specie. Proveremo a immaginare mondi senza gerarchie, in cui l'essere diversi, in questo caso di specie diverse, diventa valore e opportunità e spunto di riflessione, accantonando ogni idea di superiorità e di sfruttamento. Avete presente quell'orribile domanda: ma se tu dovessi scegliere tra uccidere tua moglie o il tuo cane? Ma se tu dovessi buttare giù dalla torre un uomo o un cavallo? Ma se tu dovessi scegliere se mangiare il leone o venire mangiato da lui? Ecco, scordatevi tutto questo, perché tutto questo non ha alcun senso. Qui cerchiamo modi per tenere assieme moglie e cani, uomini e cavalli, mangiando in modo allegro e conviviale i generosi frutti della terra. Per la rubrica Visti da vicino, oggi incontreremo un tacchino americano. Dopo la bella chiacchierata con i cattolici vegetariani, questa volta parleremo di cultura ebraica. Vi presenteremo un pamphlet imperdibile intitolato Confessioni di una mangiatrice di carne. In studio oggi per voi, Camilla Lattanzi, Lorenzo Guadagnucci. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Questa puntata introduciamo una novità nella rubrica Visti da vicino. Cominciamo oggi a proporvi delle letture tratte da un libro edito dalla piccola editrice Impronte di Luce, della quale abbiamo parlato qualche tempo fa. Il libro si intitola 95 e raccoglie i ritratti di alcuni animali ospiti di santuari negli Stati Uniti. Sono animali salvati dagli allevamenti e dai macelli, e i volontari che hanno lavorato in questi santuari raccontano l'esperienza che hanno fatto di conoscenza diretta, appunto da vicino, di singoli ospiti di queste fattorie. Siamo convinti che questi ritratti ci aiuteranno tutti a capire quanto ciascun animale sia innanzitutto un individuo e come tale debba essere considerato e rispettato. 95 è un libro ricco di bellissime fotografie che illustrano i singoli ritratti di animali ed è un vero peccato non potervele proporre per radio. Vi invitiamo quindi ad acquistare il volume online sul sito dell'editore Impronte di Luce. È molto curiosa l'origine di questo titolo. 95 non indica infatti il numero di animali che vengono raccontati all'interno del volume, bensì il numero di animali che ogni persona vegana ogni anno contribuisce a salvare grazie alla sua alimentazione. Ma ora ascoltiamo la prima storia. Amelia, compagna gentile. In una perfetta giornata di primavera, raggiunsi in auto la Virginia Eastern Shore per far visita a un santuario dedicato al salvataggio e alla cura del pollame. Dopo il mio arrivo, io e Karen, la fondatrice del santuario, parlammo a lungo, sedendoci in vari punti del cortile. Mentre la maggior parte dei residenti cominciò a farsi i fatti propri, alcuni degli uccelli li ritrovavo costantemente nella mia visione periferica. C'era Frankincense, il pavone che sfoggiava continuamente la sua coda per ottenere attenzione, c'era il vanaglorioso galletto Rhubarb, e poi Aubrey, un giovane tacchino maschio in preda ad eccitazione primaverile. Ed Amelia, una placida tacchina bianca che ci ronzava attorno osservandoci. Era più che altro curiosa di vedere cosa facessi e lasciò ai maschi il compito di pavoneggiarsi e atteggiarsi. Aubrey ed Amelia erano arrivate al santuario quando avevano circa 5 mesi. La Eastern Shore della Virginia e del Maryland sta all'allevamento di pollame, come il Midwest sta all'allevamento del bestiame. Aubrey ed Amelia discendono da uccelli specificamente allevati per la carne. Terminata la conversazione, Karen mi lasciò sola perché potessi fare conoscenza con gli uccelli e fotografarli. Amelia mi si avvicinava furtivamente, sempre di più, facendosi quasi immobile ogni volta che mi voltavo per rivolgerle la mia attenzione. Ovunque andassi non era mai molto lontana. Mi ricordava i miei cani, devono sempre sapere ovunque io sia. Amelia trascorre gran parte del suo tempo con le galline e i galli, ma è anche piuttosto indipendente. Le piace la compagnia degli esseri umani e ricerca lo scambio di affettuosità fisiche con i visitatori e i volontari. Spesso fa bagni di terra assieme alle galline e poi va alla ricerca di una macchia di sole per rilassarsi. Continuò a osservarmi trasformandosi nella mia ombra. L'innata curiosità di questi uccelli fu ciò che li fece quasi estinguere quando gli europei arrivarono in Nord America. Si avvicinavano alle persone per curiosità e venivano uccisi in massa. La loro ingenuità veniva derisa e ancora oggi l'epiteto tacchino equivale a un insulto. Alla fine non ebbi altra scelta che fare una coccola ad Amelia, cosa che lei sembrò apprezzare. Allontanando la macchina fotografica con una mano riuscì a inquadrare noi due insieme. Volevo catturare la sua dolcezza e il suo desiderio di coccole. Da allora ho conosciuto altri uccelli, alcuni dotati di forti personalità, ma nel passarli in carrellata la dolcezza di Amelia continua a colpirmi particolarmente. Il suo semplice desiderio di essere coccolata è un pugno allo stomaco quando passo davanti a una rosticceria. Davida Gipsy Breyer. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Jura Matthew. Alla spinosa questione della sofferenza degli animali e in particolare alla questione della shechita, ovvero della macellazione rituale kasher. Domenica scorsa, il 7 aprile 2013, come preannunciato, la redazione di Restiamo Animali è andata a seguire i lavori di un convegno dallo stesso titolo tenutosi in una sala all'interno della Sinagoga di Firenze. L'intervento che dal nostro punto di vista è parso più avanzato è stato quello di Tobia Zevi, un brillante ricercatore, giornalista e conduttore televisivo. Nel corso degli ultimi anni varie volte è c'è stata la polemica sulla macellazione rituale ebraica ed islamica. In particolare in vari contesti locali e anche internazionali si è posta l'attenzione sul fatto che forse la macellazione ebraica e musulmana, per capirci lo sgozzamento dell'animale, era più cruenta e dunque andava vietata rispetto alla macellazione normale. Questa cosa evidentemente pone un problema notevole, perché da una parte c'è un diritto, quello dei musulmani e degli ebrei, alla loro libertà religiosa e alla tutela delle loro tradizioni, dall'altro esiste un diritto, quello dell'animale, a soffrire il meno possibile. Questo al di là del fatto che personalmente sono vegetariano, ma diciamo, anche se ammettiamo la possibilità di mangiare carne, evidentemente abbiamo il dovere di far soffrire il meno possibile l'animale. Ora, questo tema a me sembra molto interessante dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista politico, proprio perché ci pone di fronte a un dilemma, quello di due diritti che sono parimenti degni. Da questo punto di vista il dibattito è iniziato a tutti i livelli e ho pensato che anche in ambito ebraico fosse utile ragionare senza arroccamenti, senza chiusure identitarie, dal momento che l'origine di questa tradizione, cioè la macellazione rituale ebraica, è in realtà

private, singole, certamente difficili, ma che ci sono. Esiste una serie, un tessuto di buone pratiche, di esperienze, di gruppi, di associazioni, di realtà che insomma già propongono in qualche modo un modello di sviluppo diverso. Tobia Zevi, Restiamo Animali? Restiamo Animali. Qualche mese fa a Restiamo Animali abbiamo intervistato Jill Robinson, la fondatrice di Animal Asia, l'organizzazione che tutela l'orso bruno in Cina, vittima di una terribile segregazione di fine orribili per la sottrazione della bile, che è molto ambita dai consumatori cinesi. Jill ci raccontò in quell'occasione dei primi passi che stava compiendo l'animalismo in quel grandissimo paese e della necessità di sostenerlo anche dai paesi europei dove la difesa e la tutela dei diritti animali è al momento più avanzata. Ora arriva la notizia che Animal Equality, l'organizzazione internazionale che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, ha realizzato uno straordinario documentario, potremmo definirlo così, in realtà una investigazione, all'interno dei macelli, nei luoghi in cui si produce carne di cane. Il consumo di carne di cane è praticato in alcune zone della Cina, in particolare nel sud e nelle regioni confinanti con la Corea. Le incursioni degli attivisti hanno permesso di documentare condizioni assolutamente terribili per il modo nel quale gli animali sono segregati e anche per come vengono maltrattati e uccisi. Animal Equality ha incluso in questa sua investigazione il commento di Bernard Rollin, docente di scienze animali e scienze biomediche alla State University di Colorado, il quale ha detto: «Questo video è il peggiore, il più crudele e terribile che abbia mai visto. In Cina al momento non esistono leggi di tutela degli animali e solo ad Hong Kong, che ha evidentemente una storia molto particolare alle spalle, il consumo di carne e di cane è vietato». Chi se la sente potrà visionare il video frutto della investigazione di Animal Equality. Metteremo nel nostro sito tutte le indicazioni per raggiungerlo. Ma è importante rimarcare che questa indagine è l'avvio di una campagna internazionale che Animal Equality lancia in collaborazione con alcune organizzazioni cinesi per i diritti animali, con l'obiettivo di porre fine a questa crudele pratica del commercio di carne di cane. È quindi importante sostenere questa campagna, approfondire gli argomenti che ne sono il presupposto e contribuire a questa nuova alleanza fra l'animalismo europeo e quello che sta nascendo anche in Cina. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Ho passato quasi tutta la vita a mangiare carne. Sonno escluso, nessun'altra attività mi ha preso tanto tempo. Succulenti barbecue argentini, würstel tedeschi, pollastre francesi, spiedini giapponesi, jamon spagnolo tagliato a fette sottili. Adoravo inghiottire animali preparati secondo tutte le modalità delle culture umane. Adoravo succhiare la testa, gli occhi delle orate, così come attardarmi sul fegato, la carne e i muscoli che restavano attaccati alle ossa delle bestie terrestri. Confessioni di una mangiatrice di carne, edizioni Medusa, è il racconto autobiografico di Marcela Jacob, polemista e intellettuale franco-argentina. Un racconto aritroso dentro una vita segnata dagli appetiti carnali. Impossibile per un onnivoro non immedesimarsi e sentire di avere, o comunque di avere avuto, qualcosa di fortissimo in comune con l'autrice. Forse anche per questo ho trovato il libro di enorme efficacia, perché parte dal punto di vista che a nessuno di noi è stato estraneo, per imposizione familiare, per cultura o per piacere. Tutti abbiamo fatto esperienza di succulenti piatti a base animale. La confessione consiste in un fatto che l'autrice descrive come un evento tragico. Da quando l'evento tragico è avvenuto, la questione della carne, la questione di mangiare carne, di tutta la carne che ho mangiato, costituisce l'oggetto di tutte le mie preoccupazioni, delle mie letture e delle mie conversazioni. Cos'è accaduto a questa scrittrice argentina trasferita a Parigi, una donna colta e raffinata, così passionale nel suo ardore carnivoro, da dover un giorno guardare in faccia la realtà, da guardare negli occhi gli esseri di cui si nutriva, in un attimo che avrebbe poi cambiato tutta la sua vita? Gli eventi sono stati più di uno, ma assieme concorrono a placare la sua ossessione per la carne, spostando irrimediabilmente il suo punto di vista e il suo modo di valutare le relazioni persona-animale. Il primo è il caso giudiziario di un pastore francese, Gérard X, e del suo rapporto d'amore con il suo pony, Junior, che gli viene sequestrato dal tribunale francese per avere compiuto un atto sessuale con lui e che porta l'uomo, disperato per questa separazione, a scontare un anno di galera, oltre che a pagare una consistente multa. Questo fatto sconvolge la scrittrice poiché, ai suoi occhi, appare illogico e irrazionale che un atto sessuale venga punito così duramente, mentre invece l'uccisione in massa di milioni di animali e il loro doloroso sacrificio nella vivisezione continuino a non venire messi in discussione, considerati come sono, eventi naturali, fatali, oltre che perfettamente legali. Il secondo evento che sensibilizza la scrittrice è la lettura di Plutarco. Tu vuoi sapere secondo quale criterio Pitagora si astenesse dal mangiare carne, mentre io mi domando con stupore in quale circostanza e con quale disposizione spirituale l'uomo toccò per la prima volta con la bocca il sangue e sfiorò con le labbra la carne di un animale morto. Ci fu dunque un inizio anche in questo, che per alcuni è l'origine di tante questioni che si legano all'aggressività, alla violenza che l'uomo esercita verso i propri simili. Plutarco ci mostra che è sufficiente esaminare le cose come sono veramente per comprendere che la carne, che il concetto di carne è in sé una falsificazione, una menzogna, un inganno. La carne non esiste, la parola carne maschera un assassinio. Carne è il nome che viene dato agli animali che avete ucciso, alle vostre vittime. Un altro tassello fondamentale della conversione dell'autrice è la scoperta della sua curiosa complementarietà con il cane che possiede ed ama. Un essere umano è capace di percepire l'odore di una zolletta di zucchero che fonde in una tazza di caffè caldo. Il cane può provare la stessa intensità olfattiva quando la zolletta di zucchero si scioglie in una piscina olimpionica. Quando un cane vede una rosa, può sentire l'odore della mano che l'ha tagliata. Può anche valutare il tempo che è trascorso da quel momento e quello in cui vede il fiore. Per diverse settimane quella superiorità sensoriale della mia cagna su di me mi è apparsa come un equivalente di quella che avevo su di lei nell'ambito del linguaggio. Grazie a questo odorato superiore, lei pensa, mi dicevo, lei comprende, lei ha una forma di intelligenza che io non possiedo. Se i cani prendessero un giorno il potere, dichiarerebbero che lo specifico dell'animale signore e padrone è l'odorato. E noi ci troveremmo molto a mal partito. La nostra coppia, pensavo, è composta di due esseri, ciascuno dei quali ha una facoltà alla quale l'altro, qualunque cosa faccia, non potrà mai accedere. Quando usciamo per strada, la quantità frenetica di odori che non sentivo mi faceva apparire ai suoi occhi come un'illetterata, un'handicappata, una debole e cieca. Mentre era lei ad assumere questo ruolo quando entravamo in una libreria o in una biblioteca. Eravamo contemporaneamente due esseri meno mati e due esseri superiori. È così che appresi per la prima volta ciò che voleva dire per due creature l'essere differenti senza che esse siano per questo dentro un rapporto gerarchico. E questo senza l'ipocrisia lacrimosa con la quale certe persone dicono di altre che ritengono in realtà meno mate che sono diverse. I rapporti gerarchici sono il risultato del monopolio di un solo e unico parametro di grandezza. Quando si stabilisce che una o l'altra facoltà è la più importante tra tutte, una società potrà dibattere quanto vorrà sugli errori di misura, sull'ineguaglianza delle opportunità, ma sarà condannata a instaurare gerarchie tra gli esseri che la compongono, anche se spesso mascherà questo fatto sotto la parola diverso. Interrogandosi dunque sul perché si nutriva di carne, Marcela Yacoub accompagna il lettore attraverso le grandi questioni che riguardano questo lussurioso alimento nelle varie culture: l'uccisione degli animali, il loro sfruttamento, le contraddizioni di coloro che amano certe specie animali mentre ne massacrano altre. La sapiente scrittrice tocca anche i tabù della cultura della carne, come il cannibalismo, ad esempio, dando sovente prospettive inedite al lettore che vede così il rapporto tra uomo e altri animali con occhi assolutamente nuovi. L'autrice sfodera un'abilità del pensiero e un armamento narrativo provocatorio, urticante, pornografico, paradossale, mettendo a dura prova la nostra inerzia abitudinaria, il nostro pigro pensiero, specie riguardo a uno degli atti più scontati e nello stesso tempo più simbolici e pregni di cultura nel nostro quotidiano, cioè il rapporto con il cibo. Da appassionata divoratrice di carne di tutti i tipi, Marcela Yacoub ha sentito il bisogno di raccontare una maturazione che l'ha condotta a cambiare barricata, smettendo di essere carnivora. Vi consigliamo quindi l'acquisto o il prestito del libro Confessioni di una mangiatrice di carne di Marcela Yacoub, edizioni Medusa, prezzo di copertina 10 euro. Buona lettura dalla vostra Camilla Lattanzi. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Oggi vi spiego come preparare degli sfiziosi cracker salati. Sono l'ideale sia per accompagnare creme o salse come hummus, patè, maionese, sia da sgranocchiare così, come spuntino. Sono leggeri, proteici, friabili e si prestano a mille varianti in base a quello che avete in dispensa. Gli ingredienti sono 80 g di farina di ceci, 80 g di farina di mais fioretto, 80 g di farina di farro, 80 g di semi di sesamo, un cucchiaino di bicarbonato, 40 g di olio di semi, una tazza d'acqua tiepida, un cucchiaino abbondante di curcuma, curry, paprika, altre spezie a piacere, sale, pepe, un cucchiaino di semi di cumino. Riuniti in una ciotola le farine, il bicarbonato, le spezie. Io personalmente il cumino l'ho tritato un po' con il mattarello. Aggiungete l'olio e l'acqua poco alla volta, impastando con le mani, fino ad ottenere un impasto sodo e omogeneo. Lasciate riposare un po' al fresco, poi stendete la pasta di uno spessore di circa 1,5 cm e ricavatene dei biscottini con la forma che preferite. Disponeteli su una placca da forno, spennellate la superficie con un filo d'olio d'oliva, un pizzico di sale e qualche semino di sesamo. Infornate a 180 per circa 20 minuti, Per il tempo dipende molto dal vostro forno e da quanto sono grandi i biscotti. Mi raccomando, non cuoceteli troppo o una volta raffreddati diventeranno troppo duri. Ciao, alla prossima! Se incontriamo una salita, io ti sospingerò e stringendoti alla vita, d'amore ti parlerò. Ma dove vai, belletta in bicicletta? Non aver fretta... Per le volpi in questa stagione non c'è davvero pace. Dopo la campagna andata a buon fine contro l'autorizzazione alla caccia alla volpentana prevista dalla provincia di Siena e poi ritirata, ecco che spuntano due nuove situazioni critiche. Una in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche, l'altra a Teramo, in Abruzzo. In entrambi i casi gli enti locali hanno deciso di aprire la caccia alla volpe, fra l'altro in questo periodo molto critico che è quello della riproduzione, e però che è anche quello post conclusione della stagione venatoria, accampando anche stavolta motivi di necessità di contenimento della volpe in quanto considerato un animale predatorio che mette a repentaglio la cosiddetta piccola selvaggina, ossia le prede preferite dai cacciatori che sono in realtà gli ispiratori di queste politiche. Gli animalisti locali e quelli di tutta Italia si stanno ovviamente mobilitando per fermare sia Ascoli Piceno sia Teramo, proponendo fra l'altro l'esempio di Siena, dove le argomentazioni degli animalisti, la lettera sottoscritta da personalità della scienza e della cultura, alla fine hanno spinto la provincia a fare marcia indietro. Un caso che dimostra quanto deboli fossero le motivazioni che avevano indotto a prendere questo provvedimento. Troverete sul nostro blog tutte le informazioni relative a queste vicende e anche il modo di partecipare alle azioni che sono state intraprese. È importante in questa fase far valere il precedente di Siena come un caso di scuola di cui non è più possibile non tenere conto. Dall'Inghilterra arriva una notizia che farà piacere a tutte quelle persone vegane che si sono sentite apostrofare che il proprio regime alimentare non fa bene alla salute e impedisce di tenersi in forma. La notizia l'ha diffusa la Vegan Society e riguarda Fiona Hawkes, un'atleta, una maratoneta, che è risultata la prima donna classificata alla maratona del Polo Nord, una gara che si è tenuta nei giorni scorsi e quindi si è svolta in condizioni estreme. Fiona, che corre con una maglia con su scritto Vegan Runner, è risultata appunto la prima donna di questa competizione che è stata vinta da Gary Thornton. Fiona ha migliorato anche il proprio tempo. Nel 2008 aveva corso in 5 ore e 37 minuti. Stavolta sono state sufficienti 4 ore e 53 minuti per completare il percorso. Fiona è la testimonial della Vegan Society ed è anche un'attivista. Si dedica a un santuario per animali liberati e ad altre cause animaliste. Brava Fiona, e metteremo sul nostro sito tutta la documentazione per conoscere questa straordinaria persona e questo straordinario impegno sportivo. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Appuntamento a giovedì mattina alle 9.50 con replica alle 16.05 per la puntata breve di Restiamo Animali. E naturalmente a domenica prossima alle ore 12 per la puntata numero 84 della nostra trasmissione. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su Controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.